a New Orleans c'è una ventata di follia, è come una malia che ha preso tutti i negri di New Orleans. Oh yes, a New Orleans girando va la polizia che vuole cacciar via i bravi suonatori di New Orleans. Oh yes, ma tutta la città è affascinata già dal jazz, jazz. Da-ra-pa-pa-pa-pa. Quando una ragazza a New Orleans sente il cuore palpitare, tu le devi far ballare questo ritmo pazzo di nome jazz, come un incantesimo t'affascina come il suo colore, ti fa ubriacar come un sorso di liquor tingendo di rosa il cuore. Quando una ragazza dice no, prendi il tuo sassofono, canta in un megafono, non dimenticare, ci vuole jazz. Lei si muoverà convulsamente ritmando con le mani, e quando al fine tu la vorrai baciar, vedrai che dirà oh yes. E va sul Mississippi la melodia della mia città, gli amanti tra i sospiri dopo un bacio cantano dare are are are are. Un piccolo negretto suona la tromba e canta New Orleans. Par che si chiami Louis Armstrong, ma nessuno lo sa che un giorno papà del jazz diventerà tarolarolà. Quando una ragazza dice no, prendi tuo sassofono, canta in un megafono, non dimenticare, ci vuole jazz. Lei si muoverà convulsamente ritmando con le mani, e quando al fine tu la vorrai baciar, vedrai che dirà oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, tutto questo è jazz.